Salve. Salve. Ben arrivato. Ha fatto buon viaggio? No, beh. È arrivato in treno, immagino, quindi insomma. Sì. Ebbene, va bene. Si accomodi pure, si stenda e si rilassi. Liberi la mente. Lei è il signor? Oblio, sì, sì, Oblio. Sì. Leonard Turri. Sì. Vediamo, mi lasci consultare la cartella clinica. Allora, l'hanno portata qui con la forza. Sì. Lei si ostina a spendere tutti i suoi risparmi in dischi autoprodotti. Sì, sì, sì. E continua a produrre incessantemente la musica hip. Sì, insomma, non si rivolge mai alle case discografiche, nulla di serio, insomma. Ha poco valore questa sua attività senza fini di lucro. Le persone in generale, insomma, i suoi cari sono disperati. Ma no. Mi può spiegare cosa succede, quali sono le sue pulsioni, caratteristiche, che cosa lei... Ho fatto così tanti dischi che non mi ricordo i titoli. Non sono il bel tipino col visino che spara un pompino a produttori sotto tavoli. Piuttosto vado a rotoli, non voglio certi fronzoli. Non sono il tipo d'alta classe che fa musica per divertire, ma si spingo solo QDS. Non voglio promesse da uno sconosciuto. Lecca culo nelle case discografiche, mondo venduto. Se il talento si misura in base a quanto paghi, resto indipendente. Do il mio contributo che ho un progetto nella mente, senza tornaconto personale. Chi vale qui non vale se non mente. Ho scritto così tanti testi da non capire che sono io se tu imiti i miei versi. Certo sono Oblio se per caso non ci senti. In questo mondo mio non c'è pane per i tuoi denti. Quindi tu rifiuti di inserirti, vuoi non aprirti, ma canti dentro dischi. Questo è un paradosso se pretendi che poi altri possano accettarti, ascoltarti lo stesso da adesso. Tu non puoi fidarti che sono tutti scaltri. Nel mondo discografico vogliono fregarti, ma parlami un poco del lavoro, che qua ti senti vittima come Aldo Moro. Controllore sopra un treno con la viaria, sui vagoni come carri di bestiame manca l'aria. Appiccicato come un francobollo sulle porte guaste, mi tirano il collo con le mani sulle palle. Faccio vita sedentaria, con locomotore in avaria. I passeggeri chiamano la polizia, la ferrovia fa passare la poesia. Le ferie è un'utopia, mo mi metto in malattia. I rappresentanti sindacali sono corrotti, faccio turni coi cerotti. Mi tocca pippare come Totti con gli occhiaie sulle cedole. Fanno chinotti, dicono bazzecole, siamo al limite. Sembra un romanzo Harmony, il vociare tra deposito e deposito. Ma un giorno me ne andrò, e ancora non lo so se famoso mai sarò, perché il mio solo blog è il polonord.com. No! È comune questa situazione al confine, tra voci inopportune e lavoro che opprime. Ma pensi veramente di salvarti con le rime, che in verità nessuno al suo lavoro resta affine. Tutti che si alienano, pettegoli che ciarlano, crumiri che si esaltano, si plasmano, s'adattano a sta vita sancita. Ma parlami dell'ultima tua tipa, mi sembra che l'hai stuprata. L'unica donna giusta per me sono io. Se mi metto la parrucca e guido la mia Renault Clio, investo le puttane e dopo prego Padre Pio. Non ce n'è, non ce n'è, sono io, sero Oblio. Rubo la tua borsa e non c'è dentro un tubo. Rubo la tua testa e non c'è dentro un tubo. È la stessa cosa, piena di cazzate moda, pasticche di droga, profilattici e di Viagra. Tanto non mi tira, tanto non mi tira. Sotto la tua gonna con la pila vedo Ila. Vado dalla mia psichiatra, mi sbottono. Gioco con il Lego, poi la Lego e la bastono. Odio la tua bocca, odio chi mi tocca. Odio le tue mani sul mio corpo come stoffa. Sono un maschilista dalla testa fino ai piedi. Abbassa la cerniera, non c'è niente, non ci credi? Sì, sì, ora capisco, mi sembra tutto ovvio. Lei è affetto da una rara e atipica sindrome, quella dell'artista disadattato. Fortunatamente per lei, però, io sono un esperto e quindi le faccio immediatamente una ricetta. Allora, mi prende un'ora e mezza, dice, posta per te almeno due volte alla settimana. Mi compra immediatamente 1,20 kg di scarpe di Praga, da gestire a suo piacimento questo. Poi mi guarda, studio aperto ogni mezzo di, o meglio un TG4. Questo è un vero toccasana. Poi tutte le serie del Grande Fratello, La Fattoria, L'Isola dei Famosi, La Talpa, eccetera eccetera. E immancabilmente, mi raccomando, in massiccia dose musica commerciale dalla mattina alla sera, anzi anche la notte, abbondi pure. E vedrai, vedrai che la tratteranno come un tipo normale. Anche lei imparerà a non pensare, a sorridere la vita, sabe?